Alla Imran. La famiglia di Imran. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, non c'è Dio all'infuori di Lui, il vivente, l'assoluto. Nazzala alayka al-kitaba bil-haq مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Ha fatto scendere su di te il libro con la verità, a conferma di ciò che era prima di esso. E fece scendere la Torah e l'Ingil. مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Wallahu azizun zuntiqam. In precedenza, come guida per le genti, e ha fatto scendere il discrimine. In verità, a coloro che negano i segni di Allah, un duro castigo. Allah è potente e vendicatore. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Nulla di quel che è sulla terra o nei cieli è nascosto ad Allah. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. È lui che vi plasma come vuole negli uteri. Non c'è Dio all'infuori di Lui, l'Eccelso, il Saggio. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. È lui che ha fatto scendere il libro su di te. Esso contiene versetti espliciti che sono la madre del libro e altri che si prestano ad interpretazioni diverse,

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Abbiamo abbellito agli occhi degli uomini le cose che essi desiderano, le donne, i figli, i tesori accumulati d'oro e d'argento, i cavalli marchiati, il bestiame e i campi coltivati. Tutto ciò è solo godimento temporaneo della vita terrena, mentre verso Allah è il miglior ritorno. قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ بهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Di, posso insegnarvi qualcosa meglio di ciò? Per quelli che sono timorati ci sono presso il Signore giardini nei quali scorrono ruscelli, ed essi vi resteranno in eterno, e spose purissime, e il compiacimento di Allah. Allah osserva i suoi servi. Alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhabannar. Che dicono: O Signor nostro, abbiamo creduto, perdona i nostri peccati e proteggici dal castigo del fuoco. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Questi i pazienti, i veritieri, gli uomini pii, i generosi, quelli che implorano perdono nelle ultime ore della notte. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah testimonia, e con lui gli angeli e sapienti, che non c'è Dio all'infuori di lui, colui che realizza la giustizia. Non c'è Dio all'infuori di lui, l'eccelso, il saggio. Inna الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Di, obbedite ad Allah e al messaggero, ma se volgerete le spalle, ecco, Allah non ama i miscredenti. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. In verità, Allah ha eletto Adamo e Noè e la famiglia di Abramo e la famiglia di Imran al di sopra del resto del creato. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. In quanto discendenti gli uni degli altri. Allah è udiente, sapiente. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Quando la moglie di Imran disse: Mio Signore, ho consacrato a te e solo a te quello che è nel mio ventre. Accettalo da parte mia. In verità tu sei colui che tutto ascolta e conosce. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Poi, dopo aver partorito, disse: Mio Signore, ecco che ho partorito una femmina. Ma là sapeva meglio di lei quello che aveva partorito. Il maschio non è certo simile alla femmina. L'ho chiamata Maria e pongo lei e la sua discendenza sotto la tua protezione contro Satana il lapidato. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. L'accolse il suo signore di accoglienza bella e la fece crescere della miglior crescita. La affidò a Zaccaria, e ogni volta che egli entrava nel santuario trovava cibo presso di lei. Disse: O Maria, da dove proviene questo? Disse: Da parte di Allah. In verità Allah dà a chi vuole senza contare. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Zaccaria allora si rivolse al suo signore e disse:

Sono stato mandato a confermarvi la Torah che mi ha preceduto e a rendervi lecito qualcosa che vi era stata vietata. Sono venuto a voi con un segno da parte del vostro Signore. Temete dunque Allah e obbeditemi. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. In verità Allah è il mio e vostro Signore. Adoratelo dunque. Ecco la retta via. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Quando poi Gesù avvertì la miscredenza in loro, disse: «Chi sono i miei ausiliari sulla via di Allah?» «Noi», dissero gli apostoli, «siamo gli ausiliari di Allah. Noi crediamo in Allah, sii testimone della nostra sottomissione». ربنا آمنا بما أنزلت اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Signore, abbiamo creduto in quello che hai fatto scendere e abbiamo seguito il messaggero. Annoveraci tra coloro che testimoniano. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Tessono strategie e anche Allah ne tesse. Allah è il migliore degli strateghi. إذ قال الله يا عيسى إني متوفي فيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. E quando Allah disse: «O Gesù, ti porrò un termine e ti eleverò a me e ti purificherò dai miscredenti. Porrò quelli che ti seguono al di sopra degli infedeli, fino al giorno della resurrezione. Ritornerete tutti verso di me e io giudicherò le vostre discordie». فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. E castigherò di duro castigo quelli che sono stati miscredenti in questa vita e nell'altra, e non avranno chi li soccorrerà. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ Wallahu la yuhibbu zalimin. Quelli che invece hanno creduto e operato il bene saranno ripagati in pieno. Allah non ama i prevaricatori. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Ecco quello che ti recitiamo dei segni e del saggio ricordo. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. In verità, per Allah, Gesù è simile ad Adamo, che egli creò dalla polvere, poi disse: sì, ed egli fu. Al-haqqu min rabbika fala takum min al-mumtarin. Questa è la verità che proviene dal tuo Signore. Non essere tra i dubbiosi. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. A chi polemizza con te, ora che hai ricevuto la scienza, di solo: venite, chiamiamo i nostri figli e i vostri, le nostre donne e le vostre, noi stessi e voi stessi, e invochiamo la maledizione di Allah sui bugiardi. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. Ecco il racconto veridico. Non c'è altro Dio che Allah. In verità, Allah, Lui, è l'Eccelso, il Saggio. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Se dunque volgono le spalle, in vero Allah ben conosce i seminatori di discordia. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

O gente della scrittura, perché avvolgete di falso il vero e lo nascondete mentre ben lo conoscete? وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Una parte della gente della scrittura dice così: all'inizio del giorno credete in quello che è stato fatto scendere su coloro che credono, e alla fine del giorno rinnegatelo. Forse si ricrederanno. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Credete solo a quelli che seguono la vostra religione. Di: in verità la guida è quella di Allah. Egli può dare a chi vuole quello che ha dato a voi. E coloro che da lui ricevono dovrebbero forse polemizzare con voi davanti al vostro Signore? Di: in verità la grazia è nelle mani di Allah, che la dà a chi vuole. Allah è immenso, sapiente. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Riserva la sua misericordia a chi vuole lui. Allah possiede la grazia più grande. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Tra le genti della scrittura ci sono alcuni che, se affidi loro un kintar, te lo rendono, e altri che, se affidi loro un denaro, non te lo rendono finché tu non stia loro addosso per riaverlo. E ciò perché dicono: non abbiamo obblighi verso i gentili, e consapevolmente dicono menzogne contro Allah. Bala man awfa bi ahdihi wa اتقى فإن الله يحب المتقين. Chi invece fedele ai suoi impegni agisce con pietà, ebbene Allah ama i pii. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. In verità, coloro che svendono a vil prezzo il patto con Allah e i loro giuramenti non avranno parte alcuna nell'altra vita. Allah non parlerà loro, né li guarderà nel giorno della resurrezione, non li purificherà e avranno doloroso castigo. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ci sono alcuni di loro che distorcono la scrittura con la lingua per farvi credere che ciò è parte della scrittura, mentre le è estraneo. Dicono, proviene da Allah, mentre invece non proviene da Allah, e consapevolmente dicono menzogne contro Allah. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Non si addice ad un uomo al quale Allah ha dato la scrittura e la saggezza e la dignità di profeta dire alle genti: adorate me all'infuori di Allah, ma piuttosto siate veri devoti del Signore, voi che insegnate il libro e lo avete studiato. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. E non vi ordinerà di prendere per signori angeli e profeti? Vi ordinerebbe la miscredenza mentre siete musulmani? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه

أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Loro ricompensa sarà la maledizione di Allah, degli angeli e di tutti gli uomini. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Rimarranno in essa in perpetuo. Il castigo non sarà loro alleviato e non avranno alcuna dilazione. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Eccetto coloro che poi si pentiranno e si emenderanno, poiché Allah è perdonatore, misericordioso. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. In verità, di quelli che rinnegano dopo aver creduto e aumentano la loro miscredenza, non sarà accettato il pentimento. Essi sono coloro che si sono persi. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Quanto ai miscredenti che muoiono nella miscredenza, quand'anche offrissero come riscatto tutto l'oro della terra, non sarà accettato. Avranno un castigo doloroso e nessuno li soccorrerà. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Non avrete la vera pietà finché non sarete generosi con ciò che più amate. Tutto quello che donate, Allah lo conosce. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Ogni cibo era permesso ai figli di Israele, eccetto quello che Israele stesso si era vietato prima che fosse stata fatta scendere la Torah. Di: portate dunque la Torah e recitatela, se siete veridici. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. coloro che, dopo tutto ciò, costruiscono menzogne contro Allah, questi sono i prevaricatori. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Di: Allah ha detto la verità, dunque seguite la religione di Abramo con sincerità. Egli non era politeista. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. La prima casa che è stata eretta per gli uomini è certamente quella di Bacca, benedetta guida del creato. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. In essa vi sono i segni evidenti come il luogo in cui ristette Abramo. Chi vi entra al sicuro. Spetta agli uomini che ne hanno la possibilità di andare, per Allah, in pellegrinaggio alla casa. Quanto a colui che lo nega, sappia che Allah fa a meno delle creature. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. Di: O gente della scrittura, perché negate i segni di Allah quando Allah è testimone di quello che fate? قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Di: O gente della scrittura, perché spingete quelli che hanno creduto lontano dal sentiero di Allah e volete renderlo difficoltoso mentre siete testimoni? Allah non è incurante di quello che fate. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. O voi che credete, se obbedirete ad alcuni di coloro che hanno ricevuto la scrittura, vi riporteranno alla miscredenza dopo che avevate creduto. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. E come potreste essere miscredenti

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Questi sono i segni di Allah che ti recitiamo sinceramente. Allah non vuole l'ingiustizia per il creato. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Ad Allah appartiene tutto quello che è nei cieli e sulla terra, ed è ad Allah che tutto sarà ricondotto. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. Voi siete la migliore comunità che sia stata suscitata tra gli uomini. Raccomandate le buone consuetudini e proibite ciò che è riprovevole. E credete nell'Allah. Se la gente della scrittura credesse, sarebbe meglio per loro. Ce n'è qualcuno che è credente, ma la maggior parte di loro sono empi. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Non potranno recarvi male se non debolmente, e se vi combatteranno, volteranno ben presto le spalle e non saranno soccorsi. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Saranno avviliti ovunque si trovino grazie ad una corda di Allah o ad una corda d'uomini. Hanno meritato la collera di Allah ed eccoli colpiti dalla povertà per aver smentito i segni di Allah, per aver ucciso ingiustamente i profeti, per aver disobbedito e trasgredito. Laisu sawa. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Non sono tutti uguali. Tra la gente della scrittura c'è una comunità che recita i segni di Allah durante la notte e si prosterna. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.

non ne fece altro che un annuncio di gioia per voi, affinché i vostri cuori si rassicurassero, poiché la vittoria non viene che da Allah, l'Eccelso, il Saggio. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Per fare a pezzi una parte di quelli che furono miscredenti, per umiliarli, per farli ritornare sconfitti. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Tu non hai nessuna parte in ciò, sia che Allah accetti il loro pentimento, sia che li castighi, che certamente sono degli iniqui. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ad Allah appartiene tutto quello che è nei cieli e sulla terra. Egli perdona chi vuole e castiga chi vuole. Allah è perdonatore, misericordioso. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa واتقوا الله لعلكم تفلحون. O voi che credete, non cibatevi dell'usura che aumenta di doppio in doppio, e temete Allah affinché possiate prosperare. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. E temete il fuoco che è stato preparato per i miscredenti. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. E obbedite ad Allah e al messaggero, che possiate ricevere misericordia. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Affrettatevi al perdono del vostro Signore e al giardino vasto come i cieli e la terra che è preparato per i timorati. Alladhina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal-kadhimina al-ghayza wal-afina 'anin. Quelli che donano nella buona e nella cattiva sorte, per quelli che controllano la loro collera e perdonano gli altri, poiché Allah ama chi opera il bene. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. E quelli che, quando hanno commesso qualche misfatto, sono stati ingiusti nei confronti di loro stessi, si ricordano di Allah e gli chiedono perdono dei loro peccati. E chi può perdonare i peccati se non Allah? E non si ostinano nel male consapevolmente. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha إذا الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Essi avranno in compenso il perdono del loro Signore e i giardini in cui scorrono i ruscelli e vi rimarranno in perpetuo. Che bella ricompensa per coloro che ben agiscono. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Certamente prima di voi avvennero molte cose. Percorrete la terra e vedrete che fine hanno fatto coloro che tacciavano di menzogna gli inviati. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Questo è un proclama per gli uomini, una guida e un'esortazione per i timorati. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Non perdetevi d'animo, non vi affliggete. Se siete credenti, avrete il sopravvento. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتقوا اتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Se subite una ferita, simile ferita è toccata anche agli altri. Così alterniamo questi giorni per gli uomini, sicché Allah riconosca quelli che hanno creduto e che scelga testimoni tra voi. Allah non ama gli empi. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. E Allah purifichi i credenti e annienti i negatori. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Pensate forse di entrare nel giardino senza che Allah riconosca coloro che lottano, coloro che sopportano. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ أنتم تنظرون. Vi augurate la morte prima ancora di incontrarla, o l'avete vista con i vostri occhi? وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Muhammad non è altro che un messaggero. Altri ne vennero prima di lui. Se morisse o se fosse ucciso, ritornereste sui vostri passi? Chi ritornerà sui suoi passi non danneggerà Allah in nulla, e ben presto Allah compenserà i riconoscenti. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Nessuno muore se non con il permesso di Allah, in un termine scritto e stabilito. A chi vuole compensi terreni gli saranno accordati, a chi vuole compensi nell'altra vita glieli daremo. Ben presto ricompenseremo i riconoscenti. ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Quanti profeti combatterono affiancati da numerosi discepoli, senza perdersi d'animo per ciò che li colpiva sul sentiero di Allah, senza infiacchirsi e senza cedere. Allah ama i perseveranti. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Solo dissero: Signore, perdona i nostri errori e gli eccessi che abbiamo commesso, rinsalda le nostre gambe e dacci la vittoria sugli infedeli. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. E Allah diede loro ricompensa in questa vita e migliore ricompensa nell'altra. Allah ama coloro che fanno il bene. Ya ayyuhalladhina amanu in

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Non ti inganni la facilità con cui i miscredenti si muovono in questo paese. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Effimero, meschino godimento, il loro rifugio infine sarà l'inferno, che è infausto giaciglio. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. Coloro invece che temono il loro Signore avranno i giardini dove scorrono i ruscelli e vi rimarranno per sempre, dono da parte di Allah. Ciò che è presso Allah è quanto di meglio per i caritatevoli. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Tra le genti del libro ci sono alcuni che credono in Allah e in quello che è stato fatto scendere su di voi e in quello che è stato fatto scendere su di loro. Sono umili davanti ad Allah e non svendono a vil prezzo i segni suoi. Ecco quelli che avranno la mercede da parte del loro Signore. In verità Allah è rapido al conto. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. O voi che credete, perseverate. Incitatevi alla perseveranza. Lottate e temete Allah, sicché possiate prosperare.